Bernardo Bertolucci è stato uno degli ultimi grandi registi della grande e nobile storia e tradizione del cinema italiano, un regista che è nato nello spirito e nei tempi della fine degli anni 60, che ha cominciato come aiuto regista di Pierpaolo Pasolini, che era suo dirimpettaio a Roma, nella casa di Roma, lui che aveva studiato al Centro di Cinematografia, quindi aveva quella familiarità tecnica che a Pasolini mancava. E poi sono arrivati i film che hanno espresso in qualche modo lo spirito della contestazione del 68, che poi è proseguita anche negli anni successivi con film scandalosi come Ultimo Tango a Parigi. Eppure Bertolucci è stato un personaggio anche di grandi contraddizioni, capace di passare appunto dallo spirito di contestazione, di dare corpo allo spirito di contestazione. Di recente anche il film dedicato a Godard ne mette in risalto i contrasti anche con il regista francese nel momento per un'eccessiva, come dire, politicizzazione, lui che comunque era stato molto vicino e anche interno al Partito Comunista, e poi invece un'altra dimensione, una dimensione decisamente diversa, quella internazionale, quella che lo ha portato a diventare il regista italiano forse più noto al mondo a un certo punto nel decennio degli anni 80, quando con Colossal come l'ultimo Imperatore arrivò a fare incetta di Oscar con produzioni mastodontiche, anche difficili da mettere in piedi, come appunto il primo film girato nella città proibita cinese. Eppure Bertolucci non ha mai, come dire, anche in questa dimensione accresciuta, enorme, abnorme, non ha mai perso di vista la sua idea. Ma è probabilmente uno degli ultimi registi che ha pensato al cinema come punto focale della sua vita e della sua esistenza, che si è concentrata appunto sul cinema dopo ovviamente i suoi inizi, dopo il trasferimento faticoso da Parma a Roma al seguito del padre Attilio, che è grande poeta, che è stato un po' una sorta di ombra incombente sulla sua storia personale e su quella del fratello Giuseppe, scomparso, fratello minore scomparso 5 anni fa, che è stato anche presidente della Cineteca, anche lui regista. Bertolucci è stato colpito da una grave malattia, è stato costretto su una sedia a rotelle e quindi ha dovuto un po' defilarsi, ha dovuto rinunciare anche all'impegno fisico dei suoi grandi film, dei suoi grandi viaggi nel mondo, ma è riuscito a ritagliarsi anche una dimensione più intima, con piccoli film da casa, girati in uno spazio molto ridotto, grazie anche alle nuove cineprese digitali, e quindi passando veramente da una dimensione macro a una dimensione estremamente minimale. Su tutto questo, però, in tutto questo ha sempre riversato una grande capacità di analisi, una grande capacità critica, anche di autocritica rispetto a molti passaggi della sua carriera, della sua storia, e sicuramente oggi e domani lo rimpiangeremo. Non ci sono, credo, non vedo personaggi del suo livello, anche chi si richiama a lui, penso ad esempio a un regista come Luca Guadagnino, che è molto amato anche negli Stati Uniti, anche all'estero, e che spesso nei suoi film si è richiamato al cinema di Bertolucci, però mi sembra insomma che lo faccia in maniera più estetica, che non invece in qualche modo sulla scia delle grandi utopie che Bertolucci ha saputo raccontare, ripeto, con tutte le contraddizioni che ad esempio sono al centro, il fulcro di un grandissimo progetto come Novecento, girato per più di un anno nella campagna di Parma, quella dove lui era cresciuto e che ha continuato ad amare per tutta la vita, portando lì però grandi star internazionali. Quindi con questo abbinamento tra il cinema come dimensione del mito e poi invece e quindi anche l'utopia politica, il sogno e poi invece come dire la realtà concreta, quasi contadina, delle sue origini, delle sue radici. L'ultima sua apparizione era stata in aprile al Festival di Bari, dove era stato riproposto proposto Ultimo Tango a Parigi nella versione restaurata, il film che fu presentato al Festival di Porretta Terme, alla Mostra del Cinema Libero, e fu subito sequestrato da un giudice ed è stato scongelato solo dopo molti anni. Bertolucci a Bari aveva detto: oggi per fortuna l'Italia è molto diversa da quella di 40 anni fa, e questa dichiarazione che lui ci lascia forse è anche un monito per come dire, ricordarci che non tutto del passato, quel passato che spesso viene evocato rispetto a un presente così difficile, così complicato, e che quindi viene anche in qualche maniera mitizzato, che anche quel passato comunque aveva tanti coni d'ombra, tanti punti oscuri, e Bertolucci come pochi ha saputo raccontarli.